Amici di Ramtime, buonasera. Dopo il solenne sciacquone che ci contraddistingue, vi do il bentornati all'ennesima puntata live in Covid Edition di OGM oltranzisti gastricamente maleducati. Prima di dare il benvenuto ai sodali che mi faranno compagnia, ormai l'avete capito, vi tocca beccarvi uno spot del nostro nuovo format. Gli scimmioni leggono Nietzsche e poi, insomma, ne vedremo, ne sentiremo delle belle. Caro, lo sai che su Runtime Radio è partito il mio podcast e gli scimmioni non leggono Nietzsche? Perché proprio Nietzsche? In questo tempo di nazionalismi e xenofobia ci mancava il teorico del superuomo. Ma no, ma vedi, Nietzsche è spesso frainteso. Il superuomo in realtà è l'Übermensch, l'uomo oltre. Vabbè, vai avanti. E parlerò di libri. Non lo ascolterà nessuno. Sì, ma non in modo tedioso. E senti qua cosa ho scritto per la presentazione. Un vaudeville irriverente. Vaudeville? Ma ti rivolgi ai nostalgici di Macario? Libere associazioni. Troppo psicanalitico. Citazioni. Quotes. Concatenazioni. Ripetitivo. Dove noi scimmioni scendiamo per un po' dagli alberi. Troppo darwiniano. E se non proprio per seguire virtù e conoscenza. Ci mancava Dante, adesso il livello zero della citazione. Almeno per ricordarci che, come ha scritto Pennacchi, un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso. Che ne pensi? Me Tarzan tu Jane. Facciamo così, tu non ascoltare, ti faccio un disegno. Gli scimmioni non leggono Nietzsche, un podcast sui libri. Ma che cavolo dici? Dai, spegni il microfono. Dai, no, aspetta. Aspetta. Amici, ed eccoci qui, quindi ben trovati nuovamente a OGM. Oggi siamo in formazione storica, ufficiale, quindi con me ci sono Simone Pizzi. Qualcuno dica al pigiatasti lì di farla finita, per favore. E il pigiatore di tasti, Marco il distruggitore di tasti, Gualdi. Ho dei tasti da pigiare. Zitto. Sì, me lo sono immaginato col mosto, capito? Che fa il vino, coi piedi come un hobbit sui tastoni della tastiera a ciaccolare. No, no, ma sembrava proprio l'impiegato quello della posta, cioè niente quello che spinge un tasto per volta. Quello... con i due indici, no? Tic, tic. Esatto. Peggio ancora. Io... No, dicevo che vi do il saluto con un positivo ogni 30 tamponi per quanto riguarda oggi, quindi insomma minimo storico. Buono, dai, allora dopo ce lo dici perché non ho ancora aperto la pagina. No, dicevo, è presente anche quando... Hanno deciso di fare meno tamponi. Cosa, Marco? Ho deciso di fare meno tamponi. Ne hanno fatti 30. Hanno fatto solo 30 tamponi e hanno trovato un positivo. Vabbè, dai, il 3,33% periodico, insomma, ci potrebbe stare, dai, saremo anche soddisfatti. No, dicevo, ma avete presente, non so se, spero non vi sia mai dovuto capitare, ma magari sì, di andare a fare una denuncia dai carabinieri e vedere, insomma, il carabiniere di turno che ti scrive il verbale con i suoi indicini pronti sulla tastiera. Ragazzi, io ne potrei raccontare un paio di questi casi veramente, veramente allucinanti, però vabbè. Salutiamo gli amici che ci hanno raggiunto in chat fin dall'inizio della diretta. Zio Mischi, Davide Gatti che dice malgrado sia in ferie e sta ancora lavorando al 9000, e il buon Alex Raccuglia che ma non sta facendo più irruzione nelle live. Alex, mi devo cominciare a preoccupare, come, cioè, alla media o è saltata? No, il problema è che il... diciamo il platino non ce la fa più oramai, perché l'ho distanziato largamente e quindi ha detto vabbè, insomma, risparmia le energie per i momenti importanti. Ha detto mai secondo, però, a questo punto, certo, è giusto, è giusto. Però se vuole può entrare, Sì, sì, eventualmente, non ricordo se nel gruppo lo abbiamo, quindi se lo inserite al volo, sai che ci fa solo che piacere. Ha detto Alex, chiamatemi, vai, inseriamolo. Okay. Okay. Lo inserisco io. Lei conduca. Bene. Tra l'altro oggi, come ho accennato lanciando la puntata, non c'è un vero canovaccio, non che di solito abbiamo, come dire, una scaletta di puntata consolidata, però oggi è peggio del solito, è peggio. Perché il lavoro ci ha trattenuto tutti, diciamo, non ci ha permesso di realizzare nessuna pianificazione, nessun asset discreto, eccetera. Eravamo partiti da ieri da questo pensiero: hanno inaugurato il nuovo ponte di Genova e ovviamente sul carro dei vincitori per questo è merito di tutti. Successo industriale ci sono saliti tutti tranne quel poveraccio di Toninelli, quindi ci ha fatto un po' pena. E intanto vediamo anche, io vedo anche Alex, quindi anche lui è entrato, sì, in webcam. Ci io togli banda, spegni la webcam. È entrato con le è entrato con l'effetto bokeh nel frattempo. Bellissimo. Con l'effetto bokeh. Buonasera a tutte. Chi è? Professor Bethesda? No, quella è... Buonasera, io sono l'amica di Alessandro. Sono due voci diverse. Ti porti dentro tipo 20 kg di fruscio. No, in realtà volevo solo salutarvi per platinare, perché sto lavorando bestemmiando contro Apple in maniera invereconda. Vabbè, no, le bestemmie verso Apple sono sempre benvenute, giusto Walter? Ma le bestemmie comunque sono sempre benvenute, perché dobbiamo settorializzare? Scusate, cioè, che sia mai, è mai successo che abbiamo fatto favoritismi in OGM? Non mi sembra. Detto questo, ciao a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. E buon lavoro, Alex. Però mi raccomando, cioè, la promessa che il primo maggio non si lavora, tassativo, eh? Ma in realtà non sto facendo un lavoro più mio, nel senso sto litigando con una view che non vuole ridimensionarsi e dico perché gli si va a far culo. Ecco, e mi sembra sempre ma quello che non si era accorto il primo maggio è la Sant'Agostino, che lavorando da casa non gli fa più distinzione, capisci? Lasciamo stare sti giorni. Guarda, lo dico anche con una dose di contentezza. Eppure io temevo lo strapiombo lavorativo. Invece devo dire che finora, da due mesi di lavoro da casa, non ci siamo ancora mai fermati. E questa cosa per me è un dato più che positivo. Mi auguro, insomma, che siano anche altri a poterlo dire. Speriamo che dura, perché ovviamente non possiamo fare previsioni. Comunque si vive alla giornata. Però finora, insomma, non abbiamo avuto di che deprimerci. Ecco. Bene, ma scusate, io stavo parlando con mia moglie, che intanto nel frattempo mi fa ostruzione e me fa tipo, mi glassa davanti, mi attappa l'orecchia. Dice a Michela che deve rimanere in zona, perché dopo ci deve lanciare il brano. Ah, dice che dopo devi lanciare il brano più tardi, quindi rimani in zona. Vabbè, adesso non fa niente, insomma. Scusa Walter, ero un attimo, mi ero veramente distratto, però adesso torno e sono presente, insomma. Volevo anche dire delle cose, addirittura mi ero segnato delle cose e anche quelle mi sono dimenticato, quindi proprio il giorno dai, sono veramente in forma. Partiamo oggi dal tema che ha in qualche modo prepotentemente catalizzato la nostra attenzione e le nostre bestemmie qualche minuto fa, perché è venuto fuori questo articolo su Huffington Post in cui si riprende un'intervista telefonica fatta al vice ministro della sanità Sileri, in cui sostanzialmente se ne è uscito con una frase che secondo me è agghiacciante, ma non perché non mi farebbe piacere, ma perché è inapplicabile, secondo cui gli amici veri sono affetti e quindi si potrà andare a trovarli nella fase 2. Secondo me lui voleva dire che gli amici, infatti lui voleva dire che sono affetti da qualche male, per cui potete andarli a trovare. Infatti lui parla di affetti, okay. Capisci? Cioè, non avete capito la metafora, era talmente sottile questo messaggio che alla fine non è, ed è per questo che Gualdi non ci incontreremo neanche la prossima settimana, perché i 5 Stelle parlano per metafore per metafore e metà dentro, esatto, metafora, tutto dentro, diceva qualcuno, l'antica barzelletta, che vabbè, ma insomma. Simo, tu avevi dato un'occhiata quindi ai dati del, togliamoci il dentino, dato che il consulente scientifico console in questo momento non è dei nostri, dacci tu il dato scientifico. Stavo leggendo le righe, il dispaccio, quello che mettono sul Telegram di Repubblica, quindi, cioè, nel senso, una volta era più dettagliato, adesso vanno proprio per, cioè, ogni settimana diventa sempre più stringato sto dispaccio, perché il bilancio del 26 aprile ancora 323 morti, e vabbè, che comunque rispetto ai 500, insomma, però d'altronde i morti, purtroppo, quelli, fino a che ci sarà sta situazione, penso che difficilmente finché ci sono vivi. Fino a che ci sono vivi ci sono anche i morti. Poi diceva qualcuno, insomma, che è una di quelle cose che nella vita non ci puoi fare un cazzo, e dice che c'è un contagiato ogni 30 tamponi. Poi c'è il link per andare a vedere regione per regione, e adesso me lo apro mentre che voi... Il dato che non diminuisce ancora sono i contagi, perché vuoi o non vuoi ci muoviamo sempre sui 2000-2100 al giorno, e questo è un altro dato che è problematico, perché... Sì, però sull'aumento dei tamponi, cioè, nel senso, io vedo che comunque in generale, se tu vedi il grafico, la flessione c'è, lenta, ma c'è, cioè è abbastanza sensibile, anche se, diciamo, insomma, ci aspettavamo qualcosa di più. Però dobbiamo pure considerare che ci dobbiamo mettere la notizia positiva, che ancora non è arrivato l'impatto del post Pasqua, capito? Che è quello, insomma, che ci aspettavamo tutti. Eh sì. In realtà il concetto adesso qual è? Che c'è purtroppo questo doppio peso clamoroso, perché comunque la Lombardia in particolare, ancora in parte il Piemonte, stanno andando comunque ad una velocità che è molto diversa da quella del resto del paese, e che ne dobbiamo tenere conto, perché poi non è che si può, a un certo punto si dovrà decidere o di riaprire regione per regione, perché chiaramente gli altri amministratori regionali potranno dire dal loro punto di vista: da noi è tutto tranquillo, non possiamo restare fermi. Dall'altra, chiaramente potrebbe succedere il paradosso opposto, che la Lombardia, che è la prima che scalpita per riaprire, non è nelle condizioni di farlo. Guarda, io mi sono fatto un'idea. Allora, noi dicevamo i primi tempi, quando era un po' iniziata un po' tutta questa questione qui, alcuni di noi, insomma quelli più ottimisti, sorridendo, dicevano: vabbè, vedrai che potrebbe anche essere un'occasione per riconsiderare un po' il sistema che ci circonda, no? Per tutta una serie di fattori, no? In realtà poi vedo che questa cosa non solo non sta accadendo, ma vedo che poi ovviamente la pressione di chi possiede la ricchezza, diciamo così, è sempre più insomma intensa, perché qui chiaramente, dicevo, qui è la produttività, è il PIL, le cose, quella, ok, sì, benissimo tutto, no? Perché è anche giusto che non puoi tenere un paese fermo sei mesi e mandare tutti quanti all'astrico, però è anche vero che probabilmente la cosa che può mettere più in crisi in maniera devastante è che domani noi torniamo tutti a lavorare e dopo tre settimane ci sono 20.000 persone in terapia intensiva. Cioè, questo è un po' il problema, insomma, secondo me. Poi, e anche secondo Marco, mi pare di capire, vero Marco? Sì, ma sicuramente c'è questo rischio, perché poi comunque la gente, sai com'è, quando gli dai il via libera è tutto. Ma già adesso è così, esatto, capito qual è, esatto, il problema? Cioè, so già un paio di settimane, già lo diciamo dall'inizio sta cosa, però io ho notato che già da un paio di settimane la gente l'ha presa un po' più, vabbè, ma che vuoi che... E poi passato, dopo arriva Conte. È finito tutto. Poi arriva Conte che fa un messaggio alla nazione che tutti dicono non si è capito un cazzo. Secondo me era chiarissimo quello che ha detto Conte. Cioè, nel senso, a me mi fa incazzare la gente che deve fare polemica per forza. Il problema è che secondo me... sono i renziani, permettimi di dirlo. No, no, può essere, però so, io vedo anche persone su Facebook, anche persone che reputo intelligenti: ah, non si è capito un cazzo, no? Cioè, in realtà secondo me il discorso che ha fatto Renzi è abbastanza... Sì, Renzi, Conte è abbastanza preciso. Il problema è che secondo me ancora non andava fatto. Cioè, nel senso, perché già oggi la gente si sta interrogando sull'allora domenica famo a braciolata. È chiaro, no? Cioè, nel senso, che ci sta anche, perché tutti abbiamo una gran voglia di fare la braciolata, detto fra noi. Però, insomma... Insomma, io dico che c'è ancora, secondo me, troppa... noi abbiamo usato un sistema corretto, ma lo abbiamo gestito male, perché secondo me veramente non c'è stata quella, come posso dire, quella oppressione, diciamo, che era necessaria in un certo momento, no? E la gente già si è già sciolta, già vanno a trovare i parenti, vanno... Ma guarda, un po' a dormire, Simone, io ti do una chiave di lettura solo leggermente diversa, perché io ho la sensazione che se avessero usato l'oppressione che dici non ci avrebbero trattenuto in casa per due mesi e oltre. Ci hanno in qualche modo, come dire, indorato un pochino la pillola, e secondo me ha funzionato, perché ci avessero fatto venire un'ulteriore botta di depressione, secondo me a un certo punto saremmo usciti di casa proprio per rappresaglia. Fammi salutare al volo Leo Argion e Peppe Rizzard, che intanto ci hanno raggiunto in chat, e fammi leggere la considerazione di Davide Gatti, che dice: ho sentito di colleghi che da lunedì lasceranno i figli ai nonni. Io questo non lo so, però è vero che se sono persone... No, è questo il problema, secondo me. Cioè... Allora, il concetto qual è? Ci sono settori produttivi che ripartono, ma nessuno si è preoccupato di gestire le ripercussioni, perché se in una famiglia devi lasciare i figli a qualcuno perché devi tornare al lavoro, le possibilità quali sono? Allora, diciamoci un po' la verità, poi qui chiamo pure Alex in causa, perché sta stando in Lombardia, magari c'ha già il sentore di quello che succederà, perché poi è un po' questo il problema, no? Diciamo che la possibilità che entrambi i genitori dentro casa lunedì torneranno al lavoro è, secondo me, del 10% proprio, perché comunque quelli che sono in fase di riapertura sono comunque determinate comunque realtà strategiche e funzionali a un certo tipo di discorso che riguarda comunque un certo tipo di produttività, un certo tipo di distribuzione. Quindi non è che domani lunedì si tornano tutti quanti al lavoro tutto a posto, non c'è problema, no? Detto questo, il problema è sempre anche se non vanno a lavorare, Cioè, comunque, il fatto che io ti ho detto potete andare a trovare i vostri parenti è cominciamo a smollare i ragazzini, a prescindere da, capito, dal fatto che vai a lavorare o no. Ma questo succedeva già prima. Sono impegnativi, figure che stanno appiccicati. Quello è il problema. Ti rendi conto che quel giorno potevi fare sesso anale. Eh già. E quello è il problema, secondo me. Sentiamo pure Alex cosa. Allora, io credo che abbiano fatto bene a spaventarci. Perché se non lo facevano avremmo fatto devi le cose spaventare! Esatto. Non hanno fatto neanche abbastanza. E insomma, questa malattia qui è stronza. In Cina sono riusciti a fermare sta cosa, ma perché lì c'è la dittatura. Cioè, se uscivi in strada ti menavano. Oh. E secondo me per ti menavano versi, andava bene poi. Sì, sì, per certi versi l'approccio alla De Luca ha anche un senso, nel senso che io ti tratto come una persona ragionevole. Non ti comporti a persona ragionevole, te gorco. Posso dire come dite voi. E questa cosa qua, nel senso, ha dato fastidio a molti, che tra cui io vedo, parlo con noi quattro. Ognuno di noi è da due mesi che sta chiuso in casa, appunto, senza cazzi. Io vado a portare fuori il cane, dove posso portarlo, con la mia mascherina, raccolgo la cacca, la butto la cacca, torno a casa. Cioè, questo per due settimane, cioè per due mesi. Sono effettivamente stato incancrenente. Poi senti in giro dire che c'è gente che continua a prendere il pane, poi torna a casa, poi va a prendere in farmacia, poi torna a casa, poi torna in farmacia. Che cazzo, cioè, sono capace anch'io a rispettare le regole così. Cioè, c'è modo e modo di fare la cosa. Devono andare sui numeri, per cui hanno detto stringiamo quanto più possibile e vediamo cosa succede. Ci sono due velocità, è vero, c'è anche da capire quanti tamponi poi riescono a fare effettivamente, quanti casi sono effettivamente segnalati nelle regioni diverse da quelle del nord, che, per cui la sanità più o meno funziona, dovrebbe essere il motore trainante dell'Italia, Veneto e Lombardia, poi io non so fino a che punto. Non mi ricordo la domanda che hai fatto, perché la mia risposta era bella lunga. Cioè, qual era la prima domanda? Ma guarda, più o meno, cioè, nel senso, rispetto al fatto che la gente è un po' già mollato, se il messaggio di Conte già, cioè in Lombardia, può ulteriormente portare, come posso dire, un ulteriore mollamento, insomma, del senso di restrizione. Sì. Ah, sì, è vero. E no, in realtà poi l'approccio dei quanti genitori poi non andranno, sai, non lo so, noi, io lavoro nel terziario avanzato, abbiamo deciso, andiamo avanti a casa. A me, al contrario di Sbano, mi si è rallentato molto. La parte web no, la parte di sviluppo no, ma la parte di video moltissimo, e lo vedo con anche gli altri con cui sono in contatto, che fanno il lavoro. Beh, perché lì c'è proprio un problema alla radice, cioè, nel senso, produrre contenuti in questo momento presuppone una serie di cose. Se si ferma addirittura Hollywood e la catena del doppiaggio, per esempio, effettivamente vuol dire che produrre contenuti in questo momento è drammatico. In effetti sì, io lo dico sempre, per fare contenuti audiovisivi hai bisogno di molte persone e diverse risorse, diverse strumentazioni e anche location, per cui è molto più difficile produrre queste cose. Io ricordo che quando è venuta fuori l'annuncio che ci sarebbe iniziato il lockdown, io ho beccato il doppiatore che alle 17:30 è uscito: ragazzi, è l'ultima cosa che faccio, poi dopo mi chiudo in casa. E se non fossimo riusciti a fare questa cosa qui, questi video non li avremmo fatti uscire, per cui è stato un po' vincolante. Pensa che proprio inerentemente al discorso del doppiaggio mi viene una domanda, perché stavamo parlando ieri con Sbano e il direttore del doppiaggio di Discovery ha dichiarato che il doppiaggio è in fase di esecuzione ora, cioè in questo momento. Cioè, secondo te come stanno a lavorare questi? Allora, ti dico come gira la cosa. Ci sono tanti livelli. Il livello più intanto, semplice... intanto ringraziamo pure Rizzard che lancia degli hashtag. Scusate, però io resto in fase 1, viene sostituito da ricordati che devi morire, giusto. E anche Te Corco di Girasole. Dicevo, ci sono doppiatori che si sono costruiti uno studio in casa. Esatto, sì. E fanno le cose in casa. Non più che doppiatori, sono degli speaker. Secondo me, su alcune cose hanno rimodulato, su altre cose hanno... diciamo che hanno cercato di gestire la cosa, ma secondo me sono anche andati nei vari studi di doppiaggio, perché il problema non è tanto per volta. Sì, no? Diventa una cosa molto lunga, molto, molto, molto problematica questa, però secondo me l'ha fatta in questo modo. Ovviamente sarebbe Burigana da chiedere, perché lui è l'uomo che gestisce questa infatti cosa. Infatti glielo voglio chiedere, bravo, hai detto bene. Io però, ripeto, sono in contatto con due realtà che fanno speakeraggi e doppiaggi. Una di queste è molto più abituata a lavorare con doppiatori remoti, e loro distribuiti, dice, vanno avanti, nel senso, perché molti speaker hanno detto: sai che c'è, invece di perdere un'ora andare in studio, tornare indietro, mi faccio un mini studio, investo 1.000-2.000 euro, perché poi le cifre sono anche sensate se devi fare una cosa fatta bene. Beh, però sì, qualcuno punto ci ha speso anche qualcosa di più, ha visto, sì, insomma, sì, vari, no, okay, vari video su YouTube. Vi do anch'io un'indicazione, perché parlavo con Ezio, il mio amico che fa il doppiatore cinematografico e televisivo. Ah, è vero, bravo, pure tu c'hai. Lui mi facciamo intervenire una volta, no? Glielo chiedo più che volentieri. Considera che lui mi ha spiegato che sostanzialmente le varie cooperative di doppiaggio si stanno organizzando. Il problema nasce anche dal tipo di organizzazione che hanno negli studi. A seconda del tipo di studio, se ci sono quelli che hanno degli isolamenti fatti come si deve, in cui ogni doppiatore può doppiare il suo anello in una, diciamo, in un loculo autonomo col direttore del doppiaggio in un altro loculo che gli dà le indicazioni, quello, certo, diciamo, non è certe parole non si usano in... Hai ragione, loculo non si deve dire. Il vero problema nasce nella sanificazione degli strumenti. Sì, vabbè, non mi sembra un problema insormontabile. No, non è insormontabile, però li stavano gestendo, quindi so che comunque stavano tutti quanti cercando di trovare la formula per, come dire, per risolvere questo problema, anche facendo doppiare i singoli anelli alle singole voci separatamente, facendo incontrare poco le persone, anche se questa cosa mi fa temere che poi esce fuori l'effetto doppiaggio da videogioco, in cui ognuno legge il suo anello senza neanche avere il confronto con le altre voci. Alle volte non, diciamo, non viene fuori un'omogenea di doppiaggio. Guarda che è già così, cioè, infatti, la differenza è che con i videogiochi prima non avevano l'immagine, oggi anche un doppiatore, pure che sta a casa, comunque l'immagine ce le può avere, cioè, nel senso, il film esiste, se si organizzano, no? Cioè, bene, senso... poi dipende anche il budget che c'è dietro al doppiaggio, insomma. Comunque io veramente ho visto diversi doppiatori su YouTube che hanno fatto vedere gli studi che si sono costruiti a casa, ma questo in tempi non sospetti, perché evidentemente è comunque una prassi che già... Però sai qual è la differenza, Simone? Credo differenziare il doppiaggio di prodotti che hanno un direttore del doppiaggio alle calcagna da quelli che non ce l'hanno, perché se c'è il direttore del doppiaggio alle calcagna, tu non puoi doppiare a casa, perché ci deve essere questa collaborazione immediata. Questo è vero, però per esempio parlavamo anche con Carlo Burigana una volta, e comunque molti videogiochi, quelli non AAA, ma magari quelli di fascia media, sicuramente no. Comunque, cioè, pur essendoci il direttore del doppiaggio, da indicazione roba del genere, poi al massimo devi fare i falso, ma in teoria le cose. Ma guarda che, ripeto, il direttore del doppiaggio è collegato in Skype video, Io l'ho fatta sta cosa qua. Ah, addirittura? Cioè, sì, eravamo si organizzano, certo. Ma questo già... Ma 7 anni fa eravamo già in tempi non sospetti. Ubaldi e il direttore del doppiaggio, tutte e tre in Skype video. Pietro Ubaldi? Sì, sì. Ok, no, vabbè, ma tu devi sapere che io prendo sempre in giro per motivi legati sui videogiochi, in particolare poi. No, io per motivi legati fondamentalmente al doppiaggio dei cartoni animati, io dico sempre questa faida, no, tra la scuola romana del doppiaggio e la scuola milanese, che poi sì, io dico sempre Raflesia con disprezzo, no, non so se sapete di che parlo. E quindi così, vabbè, mi fa ridere così. Quindi mi immagino, quando nomini certi personaggi, io penso sempre al doppiaggio, quello proprio televisivo, che comunque sia, penso abbia dei canoni di, diciamo, di leggermente diversi da quello cinematografico che si fa a Roma. Ma infatti l'abbiamo visto con la prima stagione di Discovery, il disastro del doppiaggio. In realtà poi oggi tutto in televisione è molto standardizzato. Secondo me il problema è più a livello cinematografico che televisivo, Beh, sì, il cinema si doppia tutto a Roma, credo, non credo ci siano eccezioni, a meno che non siano progetti particolari. Dipende, in realtà sì, poi in realtà lì è più Roma, però devo dire che, sai, dipende anche dalla casa di distribuzione. C'è Disney che sul doppiaggio ha degli standard allucinanti, altissimissimissimi, per dirti, sono i più alti che ci sono forse in Europa, e altri film secondo me sono un po' più ma che gli frega, cioè, e lo vedi anche da alcune cose. poi in realtà poi se tu prendi a una serie di Netflix, quelle che non sono proprio le serie strafighe, cioè alcune sono veramente fatte, sì, ma ci mettiamo io e Pinzi, le facciamo meglio, per ma dire. Sì, ma sì, anche perché senza scomodare Vargion e Burigana. Ragazzi, fatemi un attimo salutare anche il nostro buon Lobby Frontali che ci ha raggiunto, quindi dovrebbe esserci, lo vedo, ci sei? Lobbit, dove sei? Vedo il suo avatar attivo su Skype. Vabbè, arriverà. Vabbè, comunque insomma, anche Davide Gatti, ritornando un po' al discorso originale, lui dice, cioè l'esempio è la Germania, no? Che si sono affrettati a riaprire e c'è stato un'altra volta il boom dei contagi. Poi giustamente Lobby fa anche una precisazione che secondo me è la più corretta fino adesso, che non è vero, non ce lo dicono, il virus in realtà non esiste, cioè, ma questo l'avevamo già capito, messa in scena. L'avevamo già capito dall'inizio. Però fatta bene, ma messo in scena. Sì. No, devo dire che c'è stata un'organizzazione mondiale per farlo. Che insomma. Se sono riusciti a nascondere la terra piatta, ragazzi. Cioè, si può nascondere tutto, è vero. Esatto. No, tra l'altro, volevo dire proprio questa cosa. Ieri c'è stato un gruppo. Io dico solo 6 maggio, ragazzi. 21, dico solo 6 maggio 21, non dico nient'altro. Perché per me ancora mi deve arrivare la cosa. 4 di maggio, però quello è un altro discorso. No, io dico 6 maggio, ore 21, segnatevelo, poi mi arriva la cosa. Ve faccio vedere. Va bene. Mettiamo in agenda. Volevo dire, esatto. Non so se ieri vi è capitato di sentire o sui social, insomma, questa corrente di pensiero che si è un po' diffusa. Ovviamente, perdonatemi se lo ribadisco, tendenzialmente da renziani che non tollerano dall'interno del governo, non tollerano il governo. Questa linea per cui, secondo loro, avete visto che è stato reso più o meno pubblico anche da Repubblica e da altri quotidiani, questo dossier un po' inquietante, secondo cui la riapertura indiscriminata avrebbe potuto portare addirittura a 150, nel peggiore dei casi, a 150.000 posti letto in rianimazione per lo spread dell'epidemia. E sono dati, diciamo, che sono proiezioni che io credo ogni governo faccia, e sono gli scenari peggiori possibili. Non vuol dire che si debbano verificare, ma che si potrebbero in certe condizioni verificare tali. Di conseguenza, sulla base di un atteggiamento che è stato finora conservativo, il presidente Conte, ma tutto il governo, tutto lo staff, hanno deciso di andarci piano. Questa cosa, presidente. Che ovviamente... Presidente? Sì, presidente. Questa cosa fondamentalmente ha portato alle reazioni negative. Addirittura alcuni hanno teorizzato che questo documento se lo fosse inventato di sana pianta, passami il termine, Casalino, nonché magari tutto lo staff del Movimento 5 Stelle e di Casaleggio Associati. Quindi io a questo punto mi sono domandato quale politico, a parte Salvini, che l'ha fatto in un momento di ubriacatura, quale politico si sparerebbe da solo sui coglioni con una cosa del genere? Quale politico, consapevole del fatto che avrà solo svantaggi da proseguire il lockdown, deciderebbe di farlo inventandosi dei dati, quando invece dire riapriamo tutto lo farebbe passare sul momento per l'eroe che ci ha tolto dal lockdown? Io proprio non capisco queste dietrologie, sinceramente. Ma diciamo che se ci fosse un'intenzione antidemocratica, cioè nel senso c'è una progettualità dietro, è chiaro che io me lo sono sempre domandato, cioè io 25 anni fa, e ovviamente, quindi cioè, nel senso, devo cercare anche di estrapolare un attimo questo mio pensiero, io 25 anni fa mi sarei detto chissà che succede nelle strade di Roma di notte quando non c'è nessuno in giro, chissà quali complotti si stanno ordendo, chissà quali militari sono in movimento in questo momento, perché poi uno ci scherza un po' sopra, perché è chiaro, oggi mi fa ridere a pensare solo cose del genere, però tutto sommato, se noi consideriamo che i momenti più oscuri della nostra Repubblica sono stati fatti proprio quando la gente non era in giro, diciamo così, insomma, poi alla fine un po' ti ci viene in mente, se ci fosse una progettualità dietro ha senso questo tipo di visione un po' complottistica. Nel resto io comunque continuo a vedere un fatto che più cautela c'è e i dati che vediamo in giro maggiore, perché secondo me qui la gente ancora non ha capito che qui ci troviamo di fronte a un virus che ha fatto non solo un salto di specie, che è già una cosa pericolosa di per sé, perché come lo... le licenze di cinesi, pizzi, ormai lo sanno tutti. Vabbè, comunque questo virus ha fatto il salto di specie, ma è che comunque ha una serie di mutazioni, quindi fa parte di una classe di virus che già di per sé comincia a diventare un po' ostico solo pensare al pensiero e il fatto che comunque queste cose si potranno ripetere in continuazione nel futuro. Quindi, diciamo che se il Covid attuale è il 2.0, il 3.0 so cazzi. Cioè, sì, insomma, diciamo che in sostanza è questo, no? Poi e noi però il problema è che la fabbrica deve essere aperta perché quelli che hanno i denà vanno i denà, non c'è cazzo da fare, non gliene frega un cazzo dell'operaio se sta male, muore e sti cazzi, intanto io incasso un altro po' dei soldi, poi dopo se devo chiudere la fabbrica perché sono morti tutti gli operai ci penso dopo, sti cazzi. Ma lì, anche lì secondo me può essere diciamo non così lineare il ragionamento, perché ci sono alcuni prodotti, alcuni beni che secondo me resteranno invenduti in grande quantità. Immagino in particolar modo, penso alle automobili. Io penso che il primo settore che fondamentalmente si è cercato di far riaprire, perché non possiamo nascondere, come dire, l'importanza industriale che ha il settore automotive in Italia, però è anche vero che tu ti puoi precipitare a ricominciare a costruire, assemblare tutte le automobili che vuoi. La filiera riparte, però a un certo punto tutto quello che produci sarà una mole di invenduto, perché chi è che da qui a qualche mese, diciamoci la verità, anche con delle offerte che probabilmente arriveranno per smaltire i magazzini e saranno interessanti, ma chi è che di noi, persone comuni, dopo mesi di lockdown, tra le varie cose a cui dovranno fare corso, ci potrà essere comprarsi l'automobile nuova? Per dire una cosa, ma non è solo l'automobile, quello è solo il caso più eclatante secondo me, ma pensa, il secondo caso sono le vacanze. Io invece mi devo comprare il camper. Il caso è specifico, tu avevi questo progetto comunque da anni, per cui può continuare ad avere un senso e magari veramente becchi l'occasione e dice se non ora quando, capito? Cioè, questo potrebbe anche paradossalmente essere, però il problema, ragazzi, è sempre lì. Noi ci basiamo su un sistema che necessita necessita del consumo, quindi dell'acquisto costante di beni. Se non c'è questo costante acquisto di beni, e a prescindere dal fatto che questi beni servano o non servano, il sistema crolla e lo dimostra il virus. Cioè il virus mette in crisi un sistema che di per sé non è in grado di avere un equilibrio se non c'è questo sistema, questo funzionamento, quindi far sborsare soldi a gente e far incassare soldi a gente che già c'ha i soldi, no? Quindi alla fine il problema è questo. Cioè va comunque, a me che mi continuano a fare il discorso che l'Italia ha perso il PIL il 20% e il rating de cazzo Imperium American Sweats mette l'Italia in tripla B meno, non me ne frega un cazzo, cioè non ce ne deve frega niente di sta roba, regà. Ma sono infatti tutte voglio dire, anche cioè, perché voglio dire, tutto il mondo è paese in questo caso. Non è che gli altri paesi stanno meglio di noi, anzi, gli altri paesi appena provano a riaprire i numeri risalgono, la Germania ce lo dimostra, anche perché vale sempre il solito concetto, lo diciamo praticamente tutte le puntate questo. Ma là fuori non è cambiato niente, il virus sta lì. Ma che cazzo le famo a fase trasmissioni? No, ma anzi, no, senti, volevo ingaggiare sull'argomento Michela, perché giustamente portava una testimonianza avendo parlato con altri imprenditori, no Michela? Ha detto, eccoci, ci sei. Ciao, vai. A tutti. Non so, ma se non mi avvisate. Sì, Rizzard tradotto per me, Lina, la stagia malattia da Covid è infortunio e molti imprenditori in questi giorni. Questa è una grande stronzata, infatti. In questi giorni mi hanno comunque espresso la loro paura, perché comunque loro dicono: ok, allora come fai tu, Inail, ad associare l'infortunio sul lavoro ad associarlo al Covid, quando comunque non è detto che il mio dipendente si sia preso il Covid lavorando, certo, lavoro, perché certo, comunque esce da qua, va a fare la spesa, io comunque gli do tutti i dispositivi di protezione che tu mi chiedi di mettere, esatto. E comunque mi chiedi di affrontare spese che tutti stiamo affrontando, perché anch'io. Però secondo me non è soltanto quello, è il fatto che è più facile ammalarsi di Covid che infortunarsi al lavoro, cioè nel senso sì, però poi, no, ma poi scusa, l'infortunio domanda stupida, non dovrebbe, come dire, abbracciare delle casistiche che con un'infezione da virus non c'entrano niente, nel senso l'infortunio, no, per me, so, se mi cade un plinto di cemento sul piede, Guarda, c'ho la, c'ho, perché io poi mi sono confrontata con tutte le compagnie con cui lavoro, perché sto cercando di capire poi come tutte dare, le compagnie che lavorano per te come dare risposte ai clienti, perché è importante, almeno dal mio punto di vista è importante, perché io lavoro con, soprattutto con le aziende, o cerco di lavorare soprattutto con le aziende. E il 3 aprile loro hanno annunciato questa questa circolare, hanno messo in circolo questa circolare apposita in cui spiegano che l'INAIL tutti i casi accertati infezioni sul lavoro faranno scattare la piena tutela dell'istituto come per gli infortuni o malattie già a partire dal periodo di quarantena. E ovviamente poi quello che hanno chiesto i datori di lavoro è che non venga poi fatta rivalsa sui datori del lavoro, perché poi l'INAIL paga al dipendente, ma poi si rivale sul datore di lavoro. Certo. E poi come dall'altra procedura, parte poi, le compagnie assicurative non stanno ancora dando una risposta sull'eventuale rivalsa, perché noi compagnie assicurative, noi assicuratori, assicurazione, interveniamo qualora l'INAIL praticamente esercita rivalsa sul datore di lavoro. Quindi, vedo che sta interessando molto questo discorso in chat. Qualora il datore di lavoro sia ritenuto responsabile, noi dobbiamo pagare per la sua negligenza, quindi paghiamo noi assicurazioni. E ovviamente c'è proprio c'è presente presidente così. Cioè, veramente. Comunque Giacomo ci chiede perché abbiamo scelto questo titolo, povero Toninelli. Vabbè, insomma. Quindi. Allora, e quindi in realtà il titolo del programma è stato trasformato al volo proprio perché è uscita fuori questa cosa. Che ora ci torniamo. Dell'andare a trovare gli amici. E quindi mi domandavo se il povero Toninelli, in funzione del fatto che insomma è l'unico che non sale sul carro dei vincitori del Ponte Morandi, avesse qualche amico nella vita. Scusa Michela, ti ho interrotto. Toninelli. No, vabbè, questo è il problema che sto affrontando in questi giorni, perché comunque mi sono comunque confrontata con ma anche per me, per capire come poter aiutare i clienti e come poter andare avanti con la produzione, e quindi mettere questo punto che ormai è un punto importante sul piatto delle trattative, insomma. Io però c'ho una domanda. Ma secondo anche noi temiamo Giacomo. Secondo voi Gualdi in tutto questo si è ingrassato? Sì. Secondo me si è ingrassato Gualdi, cioè tutto quel pettorale gagliardo che c'era una volta. Che io penso che avrò perso un paio di chili. Addirittura? Quindi, lo stress. Quindi non hai mangiato o hai cagato tanto? Io non mangio quasi niente quando sto a casa, quindi mangio pochissimo. Poi faccio attività fisiche. Ora succede l'apocalisse, perché la madre dall'altra parte della porta ha percepito questa frase, lo prenderà come un affronto personale e mo le cucinerà la qualunque. Tanto lo fa comunque, ma lui non mangia. Non tutta la mangia, non è che ci possiamo andare anche noi. Chi c'è al pane non c'è i denti. Io ho detto vado, io ho detto a Marco, gli abbiamo detto, gli diciamo che sei tu il nostro congiunto e poi veniamo a casa tua, ci telefoniamo e tua madre ci fa entrare. Allora, che brutta immagine, guardi che congiunto, però una cosa non so. Vabbè, perché lui è il nostro congiunto, è un affetto, com'era, un affetto stabile. Sì. Più stabile di così. Beh, lui era abbastanza aspetta stabile. Aspetta, devo fare una prova. Lobby, ci sei? No, perché ogni tanto lo vedo apparire. Va bene. Michela. Invece Alex stasera che fa Alex? Dillo stasera Alex. Cucino e ghiosa, anzi fra poco dai, vado dai, a fare perché buoni. Produrre. Sì. C'ho la bavetta alla bocca al pensiero. Sì. In realtà devo dire la verità, adesso qui in tutto attorno a noi si stanno organizzando per fare le consegne. Mm-hmm. Però siamo stati fortunati perché sta cosa ha sempre funzionato. Sì, devo dire. Da noi la consegna a domicilio è stata praticamente sempre permessa. Ma in realtà un po' in tutta Italia, solo De Luca che l'ha vietato. Pure Faccenda, pure Jack Fruit. Jack Fruit ti porta il gelato a casa, ragazzi. Aspetta, qui riformulo, anche qui si poteva. È che io abito in Colonia e dove stiamo noi c'era poca gestione di questo tipo. Invece adesso okay. Giustamente si sono dovuti fare di necessità virtute e farlo un po' tutti, se no non lavori. Allora, ma parla come mai. C'hai ragione. Allora, non te ne andare subito, Alex. Volevo chiedere un attimino a Michela se ci lancia il brano, così noi facciamo un attimino una pausa per riposare l'ugolo e torniamo poi dopo circa 3 minuti e mezzo, 4. Vai, Michi. Va bene. Allora, il brano è quello che praticamente stiamo lanciando tutta la settimana. Te la ricordi, Lella? No, non è quello, mi dispiace. Allora, è quello che stiamo lanciando, che lanceremo per tutta la settimana in tutte le trasmissioni di Runtime, ovvero Ash, e il gruppo che lo canta sono Le Shiz, bravissime, bellissime, è un gruppo che è presente sulla realtà di Roma, ma secondo me arriveranno molto lontano, quindi ascoltiamo Le Shiz. Feel awfully tonight. No words to describe the feelings I'm in. Not gonna meet your eyes. Not gonna smile through the rain. Lonely in their eyes. Can see what's near. They pull me under where I can breathe. Where I'm drowning now. And I'm drowning now. I'm just swimming this to pass. It shall pass. I'm just swimming this to pass. It shall pass. Ed eccole, erano Le Shiz. Michela, ci fai l'outro del pezzo come farebbe una radioserie? Allora, le ragazze le trovate sui social con il nome The Real Shiz, e su Instagram, su Facebook. Sì, ma scritto come? Dillo che ho scritto come. The Real Shiz. Però su Facebook è solo Shiz. Shiz, S-H-E-S. Okay. Loro, le tipe, loro, come si dice? loro. Come possiamo tradurlo in italiano? She's. Loro al femminile, che non esiste in italiano. E niente, sono bravissime. E L'ore. Molto presto li troverete anche. No, Le Ore è una rivista. Troverete il brano anche nelle varie piattaforme musicali. E comunque per adesso godiamoci il live. In realtà vi posso dare un piccolo particolare. La ragazza avrebbe dovuto cantare per i miei 40 anni, alla mia festa dei 40 anni, che ovviamente non credo. Ma ha preferito per mannaggia, che peccato che non si fa sta festa. Guarda, una cosa. Cioè, proprio... Per me è un grosso dolore. Ma a parte dolore. Che è un anno che se ne parla, quindi si farà comunque, si farà in difterite, ma si farà. Oh, che scherzi. Sì, tutto si splitta, tutto si splitta. Sì, diciamo, ma in realtà, secondo me, un po' ci ha ripensato, Michela. No. Secondo me. No, adesso avrei comunque paura. Cioè, sarebbe una responsabilità grandissima. Ma no, ma che c'entra? Però il tema che avevo scelto mi aveva talmente tanto infervorato che non vedevo l'ora, perché comunque avevo scelto il tema David Lynch, stavo cercando di capire come metterlo in pratica. Però, peccato che con i soldi con cui lei voleva fare la festa, noi ci giravamo tutto il nord Europa, diciamo. Oh così. Cavolo, ma a 40 anni uno ce l'ha una vita, ho fatto tutto per tutti, ma posso fare una festa come mi pare a me? Dai, è Michela! Ma la sera ho meritata una festa. Manco quella. Ma sì, ma non da retta, ma non da retta a Mariteto. Nel frattempo, no, fatemi... più che altro vai. Adesso non si possono fare assembramenti, quindi la vedo dura che si possano fare a ottobre. Guarda. Tra l'altro, io sto aspettando ancora che prendano una posizione quelli di Firenze Rocks, visto che io ho dato palanche che vorrei mi fossero restituite, già che dubito si farà il concerto. Scusa, sei stato annullato Imola a luglio, come fa a Firenze ancora non è stato annullato? Perché nel momento in cui dichiari di essere annullato devi ridare i soldi, finché non lo dici te li puoi tenere e speculare sugli interessi, ipotizzo, fatto sta che non l'hanno ancora detto. Volevo salutare i Lobby Frontali che ci ha raggiunto delle Olimpiadi, quindi cioè figurati. Sì, le Olimpiadi a Giappone no. Qua la gente ci parla addosso, però vabbè, non fa niente. Sì, ma è normale, è normale. Sì, sì. Ma che cosa stai dicendo? Non lo so. Ah, ma che vuoi? Mi hanno evocato dall'oltretomba. Che sei una Sam. Le oltrebare. Stamattina Lobby. Che... comunque Lobby legge nel pensiero, Stamattina è io mestiere ho suo. Gli ho mandato un messaggio. Un inception nel messaggio è stato che io, mentre gli mandavo il messaggio a lui, mentre registravo il messaggio, lui mi mandava il messaggio e mi diceva: che cazzo vuoi alle 8 di mattina? Che cosa vuoi? A rompi coglioni. Che era esattamente quello che avevo detto anch'io. E infatti, ragazzi, ho cercato di imitare la tua voce. Ti mandano per andare a preparare la cena. Buona cena, ciao, allora, buoni ghiozza e. Grazie dell'ospitata, vi voglio tanto bene e ci sentiamo belli venerdì. Ci sentiamo domani sera per il grande speciale sul calcio, una puntata importante con dei professionisti. Ma infatti questa cosa io non l'ho capita bene, una radio geek che parla di calcio? E vabbè, ci avevo messo la musica, ci avevo messo... No, a me va bene, cioè per carità, però... Viene lotito? Viene lotito, sì, proprio lui viene. Non ci vuole tanto a fare. Basta che più uno che una parola latina. Esatto, basta che metti una cosa latina ogni tanto. Aspetta, mi ha posseduto lo spirito di Gusella. Mi ha comunicato di dirvi che per sentire la trasmissione serve lotito. È amico vostro, eh? Mamma mia. Ciao ragazzi. Sono quelle cose che ciao Alex, grazie. Considera tutto comunque. Ciao alla Alex. Prossima, vi voglio. Ciao. Ok, l'ho scacciato, ciao. Ho scacciato il suo. Io credo ragazzi che vabbè, sì. Arriverà il giorno in cui anch'io riuscirò a fare una trasferta rantemiana a Milano, insomma, e quando sarà io lo gorgo de mazzate, perché insomma... Lo gorgo? Lo corco di mazzate, ma è un grande affetto, perché ricordiamoci che fino a qualche mese fa il povero Gusella stava qui con noi e insomma ci deliziava in diretta, in de visu. Delle sue... Ma è tutto un altro Gusella adesso, è tutta un'altra persona. Ora figa, fattura figa. Bravo, esatto, che tristezza, guarda. Eppure confidavo tanta speranza. Nel senso che batte? No. Comunque parte l'automatismo, figa, fattura figa, cioè non si può... È l'esclamazione figa, virgola, fattura. Non figa, punto esclamativo, fattura. È una questione proprio di non verbale. Invece c'è gente che dice fattura, virgola, figa. capito? Che è diverso, capito? Quello è già un altro concetto. Esatto, non so quanto è legale in Italia, dovrebbe esserlo, però ci sta la legge. Potrebbe, ma in come realtà ho scoperto, cioè, se uno va un amico, non è la prostituzione in sé ad essere reato. No, è il reato è, come si dice, a parte lo sfruttamento della prostituzione da terzi, ma poi credo l'adescamento credo sia reato. L'adescamento, esatto, sì, quello è reato. Ma per motivi di, come si dice, di pubblico, non di ordine pubblico, di pubblico pudore, nel senso. Se lo facessero in casa non sarebbe problematico, insomma. Però non ci sono dei codici però se è in affitto c'è lo sfruttamento della prostituzione da parte del proprietario. Un'inculata, come si dice. Quindi sì, beh, è chiaro che, insomma, che abitavano di fronte a casa mia, Gualdi. La luce rossa e la luce blu. Le famose luci rosse e luci blu. Mitiche. Di cui una, secondo me, c'aveva anche 16 anni, volendo, insomma. Mamma mia, brutte come scelta. La morte, ma... No, che brutte scene, dico queste, perché comunque poi... so, però vedo, c'era questa cosa, ma poi, cioè, nel senso, non solo era organizzata, era risaputa, e diciamo anche che Michela, insomma, contattò i carabinieri a Monterotondo, i quali dissero ci vediamo dopo le ferie, vabbè, che sarà, Modulucette, ma su, signorina, ci sta. Qui però la domanda sorge spontanea: se una ha un cliente abituale, è considerato affetto stabile quello? No. Non dovrebbe essere affetto. Non ci dovrebbe essere affetto. Se, no. Vabbè. Se ti dice niente baci sulla bocca, non è affetto, ecco. Scusa, se è professione, allora, se è una professione, però una professione. Posso obiettare questa cosa, perché può essere che per uno, per il professionista, in questo caso la professionista, non è affetto, ma per il cliente magari lui prova un sincero affetto. Ma al di là delle battute, io penso che ci siano casi in cui, come dire, qualcuno vada determinato proprio con quella perché c'è un'infatuazione, no? Perché voglio dire, poi credo che loro in qualche modo con questo ci possano anche giocare. Gualdi, volevi portare una testimonianza? Guardi, parlaci. No, purtroppo no, non posso andare perché sto chiuso dentro casa, per cui non posso testimoniare, mi spiace. Puoi far... Scusa, però abbiamo detto che il takeaway vale, la puoi far venire a casa? Eh sì, certo. Ma quelle sulla salaria pure dicono a chi si fio, oppure... Cioè, quelle quelle ti dicono a Mowumba, allora c'è una signora sulla salaria che praticamente che è storica. Tra l'altro, Michela, tu che vai a Grottaferrata ogni lunedì mattina e passi per la salaria, la tizia col camper c'è ancora? Credo di sì, non ci ho fatto mai caso. Abita, lei ci abita lì comunque. No, cioè, lei se l'è fatta tutte gli stadi di le cose di Pornhub. È passata da teen probabilmente a granny adesso. Sì, perché è diventata nonna nel frattempo. Mamma mia, ragazzi, che deriva stiamo prendendo con questo costituzionale della pornografia. Ma pure quella con la bicicletta, cioè quella con la bicicletta che l'hanno intervistata pure in televisione, quella è bella. Quella era gagliarda, quella con tutta sudarella, mamma mia. Non so come siamo arrivati a questo, ragazzi. Doveva parlare del ponte Toninelli, perché allora, hanno lanciato il sondaggio, come si chiama, la raccolta firme online per chiamarlo ponte Toninelli. Sì, ma io credo che sia giusto, dai, perché poi Porello è l'unico che non si è potuto attribuire un briciolino di merito. Ieri sono arrivato addirittura a sentire alcune persone dire che è grazie ai consigli di Renzi che è stato fatto questo ponte così impeccabile in così poco tempo. Fate voi. Grazie ai consigli di Renzi ci abbiamo, allora pure il Covid è stato colpa sua, dai. Vabbè, lasciamo stare, sì, perché sennò poi dopo. No, però al di là di questo, insomma, davvero tutti quanti si sono presi il loro pezzettino di merito. Peraltro posso dire, da tra virgolette collateralmente esperto in materia, visto che il mio diploma me lo consente, il ponte non è finito. Sono stati posati tutti gli impalcati, però adesso c'è tutta la fase di consolidamento, posa dell'asfalto, vabbè, cioè pure di Asbano, non ci potrà camminare una macchina sopra prima di due mesi, se va bene. Intanto siamo in lockdown, blackdown, esatto. Dove vuoi andare? Dai, giustamente, come dice Giacomo, ha stato tutto attaccato il PD. No, ma invece poi io volevo chiedere anche al buon Rizzard, qualche volta ragazzi lo facciamo intervenire, perché io voglio chiedergli questa storia dell'altro De Luca, non so se avete seguito, di Cateno De Luca, che sostanzialmente è andato a, blaterando di chiedere ai suoi cittadini l'astinenza sessuale, ragazzi. Tremenda. Io capisco che porta un cognome difficile sulle spalle, quindi cercare di essere all'altezza dell'altro De Luca è complicato, però comunque Lobby, senti, c'è il silenzio su questo. Una domanda su proprio tecnica, ma secondo te no, Marco Gualdi, visto che hai sentito, allora intanto partiamo da una domanda: hai sentito la presa di posizione di Sileri, vice ministro della sanità, alla radio, credo alla Zanzara, parlare di assetti stabili? Esatto, sì. È considerabile, dipende da come lo considerate voi. Voi lo volete bene a Gualdi? Sì, lo vogliamo bene noi, sì. Ah, lo volete bene a Gualdi. Dalla poi scala... dopo, cioè, anche qui c'è un po' da riconsiderare, cioè, diciamo che più che gli vogliamo bene, se siamo abituati alla sua presenza. Siete abituati alla sua presenza. Quindi è comunque qualcosa di stabile. L'assenza di Gualdi genera un vuoto abitudinale, ecco, diciamo così, forse questo è più appropriato. Quindi potrei più affidare alla carta, diciamo, che avete tipo il danno esistenziale della mancanza di una parte fondamentale della vostra vita, come un pochino come soprammobile, che ce l'avete lì da anni, però poi esatto, nel momento in cui lo togliete, ma sta stanza è strana, ma con me, vabbè. Però dipende. Allora, è come diciamo se fra che qualche voi anno tu mi levassi Alexa, capito? Cioè la stessa cosa, cioè una cosa, un qualcosa con il quale però ogni tanto interagisci. Ciò non succederà mai, perché al massimo sarà Alexa che avrà tolto te, quindi, e ti avrà sostituito, avrà... No, ma te lo immagino, un Simone Pizzi. Per non perdere Alexa, Simone, tu ti devi solo accertare di fare un po' di shopping su Amazon regolarmente. No, ma lei addirittura ci è capitato con Michela che ha fatto un ordine arbitrario, ora non so se cosa ha capito, però cioè, era troppo tardi. No, era colpa tua, non era colpa d'Alexa. No. Se puoi, estendo Amazon Music a 250 milioni. Non era così. Sì, va bene. Era Alexa che diceva, ma se puoi, qua, metto pure qua. Sì, va bene. E dopo ti ha fatto 9,99. Ecco, questo è il lato che io assolutamente abborro della tecnologia, perché veramente è un modo subdolo per mettertela in posto. Queste sono quelle cose che io non accetto, che le faccia Alexa, che le faccia Google, che le faccia chi te pare, insomma, proprio non le accetto. No, ci spieghi meglio che cosa fa lei alla tecnologia. Il complotto della tecnologia. Laborro. È italiano, ragazzi. Ah, ok. Fa schiuma, ma non è sapone. Esatto. Ma non da borro. Esatto. Che tristezza. Vabbè, levatemi Steam, raga, perché... Ma che stai a giocare? No, più che altro mi è scappato che mi sono comprato XCOM. Ah, ma che c'è? La carta registrata, la mia? No, è Alexa. Guarda, queste tecniche si vogliono di PayPal a comprare, vogliono PayPal a pizzi. No, non è PayPal. Abbiamo pagato il mutuo, quindi non c'è più niente. Te torna indietro. Vabbè, pazienza. No, momenti oramai no, perché momenti di disperazione di menage familiare, insomma. No, io glielo dico, dato che ha usato la carta mia. Io il mutuo l'ho pagato, perché comunque il mutuo non ce l'hanno. Hai fatto il tuo dovere, brava. Accantonata, e quindi. Vabbè, d'altronde quello è un mutuo personale, non è una cosa aziendale, insomma. Quindi. In realtà non ne abbiamo manco chiesto, a dirti il vero, cioè, nel senso, cioè, anche questo, insomma, dobbiamo dire, insomma. Voi i vostri mutui li pagate? Io sto in affitto. Peggio di così, che te devo dire? Eh sì, che lo pago. Perché in realtà si parlava anche della sospensione temporanea degli affitti. Oh no, forse è un supporto, un sussidio forse. C'è un sussidio temporaneo, però in base anche al tuo ISEE, insomma è un macello e comunque vabbè, troppo complicato spiegare perché non ci rientro, insomma. Però la rata della macchina me l'hanno sospesa, Bravi. Beh, dai, meno male, almeno fino quello. Fino a ottobre. Gliel'abbiamo dovuto dire, però. Abbiamo dovuto scrivere 50 volte e scrive mette per conoscenza anche illegale. Non sapevo, ne parlavate l'altro giorno, il fatto che si può addirittura ottenere la sospensione dei finanziamenti per le palestre, che per me era una cosa impensabile, perché partivo dal presupposto che il contratto tra le parti è tra me e la finanziaria che ha estinto il mio debito con il proprietario della palestra. Poi alla finanziaria frega cazzi se non posso andare in palestra. No, però le finanziarie stanno facendo, cioè io c'ho una finanziaria per la macchina, stanno facendo delle iniziative mirate, non so bene a quali categorie, però comunque ci sono delle iniziative proprio per il coronavirus. No, no, ma mi fa solo che piacere. Il coronavirus, come dire, la palestra, cioè tu magari qualsiasi finanziamento c'hai e tu dici io non posso pagarlo e te lo sospendo, no, ho capito. Se rientri in quei criteri, diciamo che se glielo chiedi, allora questa è come la cosa di Sky, perché Sky giustamente ci diceva l'altro giorno Peloso su Radio Virgin, sì, è vero, che praticamente Sky in questa fase in cui soprattutto non c'è il calcio e roba del genere, Sky ha previsto uno sconto, un grosso sconto tra l'altro, però che succede? Che se glielo chiedi tu, certo. Ma non solo se glielo chiedi, ma non te lo dice neanche. Cioè, se tu per caso accedi nel tuo MySky, c'è il modulo per richiedere. Sì, l'hanno fatto più burocratico possibile. Poi a me Sky fa. Quanto parte io... da quando tu fai la richiesta? In realtà invece dovrebbe partire. Allora, io non ho molta stima in generale di Sky, perché trovo che comunque abbia, come dire, delle tariffe che fanno pesare il costo del calcio anche sugli altri pacchetti. No, però detto questo, trovo intollerabile questo doppio atteggiamento, perché da una parte cerca di non agevolare gli utenti ai quali non sta dando il calcio da 2 mesi facendolo gnorri, dall'altra non vuole pagare la rega per quello che però fondamentalmente fa pagare ai suoi clienti. Cioè, a me mi fai pagare il calcio non dandomelo, poi ti rifiuti di pagare la rata alla Lega Calcio dicendo che non gli stanno dando il prodotto, e mi sembra io veramente incongruente. Io se vuoi te lo do il calcio, c'è il problema. Se vuoi io ti do il calcio, tutto il calcio che vuoi. Sì, immagino. Nel frattempo Davide ci sta raccontando tutti i suoi festeggiamenti, sì, perché ha finito di pagare il mutuo 2 anni fa e ha anche disdetto Sky 1 anno fa. Quindi grandissimi risultati di Davide. Anche noi abbiamo disdetto Sky. No, anche noi, è vero. Anche è vero. In modo molesto, sì, perché sì, comunque un volano chiude, sì. Quindi, però poi alla fine me l'hanno chiuso Sky. E abbiamo fatto un smettere Sky, devi fare tipo alla notte di luna piena del terzo. Devi morire. Ma io semplicemente non gli ho pagato una mensilità perché non mi accettavano la disdetta. Poi me l'hanno accettata dopo 2 mesi, mi hanno detto che però devo pagare. Sì, comunque la soluzione, ragazzi, come si chiama? Now TV. Cioè Now TV quando è paghi, quando non paghi non c'è. Basta. Paghi quello che vuoi vedere, il mese che vuoi vedere. Però anche Now TV, anche Now TV, anche a casa nostra poi ha delle televisioni. Raga, io il campionato lo vedo, ma rompete il cazzo, cioè. No, vabbè, ma non c'è niente di male, cioè nel senso questa retorica antitelevisiva, cioè. Ma noi non la guardiamo la televisione. Scusa, stai sempre appiccicata la televisione. Ma che cosa vedo in televisione? Allora, per me dobbiamo differenziare i contenuti, nel senso che per me la televisione è uno strumento, non è un media, nel senso che a me serve per vedere le serie TV che mi piacciono, i film che mi piacciono, i contenuti giornalistici, attualità, l'avan spettacolo frega sega. L'unica eccezione della vita mia è Propaganda, e lo sapete bene. Anzi, smettete di mettere dirette alle 21 perché io non vi ascolto. Ecco, scusate. Ma il venerdì è raro, non mi ricordo che c'era venerdì scorso. Che abbiamo fatto? C'era qualcosa, sì. Pitfall. Ah, Pitfall. Vabbè, è un'eccezione straordinaria. Di solito non capito, cioè no. Però comunque vabbè. Io direi che ora danno a cena. Dai, no? Sì, raga, andiamo a preparare la cena, magari secondo andiamo a cena. Secondo me, raga, abbiamo parlato di tutto tranne che di quello che dovevamo parlare. C'ho sta sensazione, però può essere pure vabbè, a parte cazzata. Che è la regola, perché OGM funziona frega. Così. Però in realtà la chiosa finale, se vogliamo riprendere questo argomento, è insomma, ma sta ridicolezza de Sileri che ha detto, praticamente ha creato l'anomalia perfetta su un decreto intero. Basta che dici che vai a trovare un amico e poi fa quello che cazzo te pare, se fosse vero, no? Però Lobby, scusa, ci stiamo prima chiedendo, ma un amico invisibile? Ah, vero, vale. Vero, cavolo, bravo. Cioè, se io l'amico immaginario, non invisibile. Dipende dal livello di opacità dell'invisibilità. Esatto. No, scusa, perché il termine è giusto. L'amico immaginario, scusa Lobby, che ha la sua casa immaginaria, io posso andarla a trovare? Ripeto, dipende anche dal tasso di opacità. Più o meno dall'85% in poi è troppo invisibile, quindi no. Però prima dell'85% è al contrario. Hai ragione, mi sono confuso. Cioè, al di sotto del 15% di opacità, secondo me no, non si può fare. No. Però, la domanda poi che facevo io collaterale era: che succede se scoprono che a casa tua c'è il tuo amico immaginario? Perché in teoria non poteva venire neanche lui da te. Cazzo, ma dentro casa, ma dipende se c'ha, se gli metti. No, il problema fondamentale, secondo me, scusa Francesco, ma secondo me il problema più grave è se fermano l'amico immaginario per strada. Questo era, secondo me, i soccazzi grossi. Questi sono gran cazzi, ma sì. Deve avere sempre l'autocertificazione. Però essendo immaginaria è un casino. Poi, i cazzi grossi, diciamo che non a tutti danno fastidio, poi diciamo anche questo. Cioè, secondo me, poi non so. Perché, per esempio, si raccontava di un marito che sentiva la moglie che parlava. Dice: boh, c'era l'amico immaginario. Però non andava a verificare, insomma. E alla fine erano cazzi grossi, vabbè. Cioè, quindi nella stanza accanto si consumava il tradimento, non ho capito. No, lo so, sto di cose. Ah, allora, okay. Prima che degenerate, io vi saluto perché devo andare a preparare delle polpette fantastiche. Brava, brava, vai a preparare. Carciofi, pecorino e guanciale, sì. Abbi coraggio delle tue azioni e dillo a tutti. Sì, carciofi, pecorino e guanciale. Malino, guanciale? Fave e pecorino. Ma dico malino, guanciale? Lino Guanciale. Vabbè, ciao Michele, ciao Michele, comunque è un attore, vabbè. Non lo conosco. Qua certo, qua perché lo sapete, allora, com'è. Che finisce zio qua solo per Gemma, se conosco. Zio, sei tutti noi, vabbè, mo che finisce la quarantena vi porto la zizzona di Battipaglia. Dai, cambio delle polpette, ma guarda tutte le polpette che vuoi, cioè le faccio in tutti i modi. Le polpette quelle dei fantozzi, tu mangia, io ho visto che tu mangia. La zizzona di Battipaglia è qualcosa di fenomenale. Va bene, non ciao, consegna a domicilio, ma in realtà le ha fatte. Ciao, vi devo spiegare. Si sta per chiudere il microfono. Svelare un segreto. Che ecco, sentite che va in fade piano piano. No, dai, è come il meme, faccelo dire. Non va in fade anche lei, questo è il fatto. No, ecco. Le ha preparate il salumiere. Il salumiere. Macellaio, salumiere. Hai usato la città. Hai le impastate lui. È come il panettiere. Capito? Insomma, quindi devi solo friggere la sostanza. Vabbè, però. Sì. Il giorno sono tornato a casa e c'è una casa piena di salumi. Che è una cosa di fantozziana memoria, praticamente. Esatto. C'è la palle dappertutto. Va bene. Comunque, ciao, io dico, ragazzi, piuttosto che far portare la zizzona di Battipaglia, andiamo noi a Battipaglia una volta. Invece porto io tutti quanti in carioletta e si fa una mangiata del sud. Conosco un paio di agriturismi nelle zone e vi faccio tornare morti. Roba che non servono il doppio delle macchine quando torniamo, perché non c'entrate. Ecco. Poi lo porti in litorane e voglio il zizzone. Ma altro tipo di zizzone, però. Di tutte le misure, dice. Esatto. Vabbè, ragazzi, io direi, vabbè, veramente, dobbiamo andarci a preparare la cena. Io personalmente stasera sto proprio nei casini, proprio non c'è. Posso fare un annuncio? Vai, anche due. Stiamo organizzando con Gualdi a giocare in cooperativa a For the Kings. A For the King, anzi. Quindi se qualcuno è interessato ce lo scriva in programmi videoludici di Runtime su Telegram, cercatelo. Oddio, mi hai fatto in mente. Ma lo danno ancora gratis su Epic, perché mi sa che è un mouse. Sì. Okay. Dovrebbe esserci ancora. Un momento di tristezza mi è venuto in mente In the Name of the King, che è il film con Jason Statham, che è praticamente uno dei mega successoni tratti dai videogiochi. Non so se vi ricordate Farmer, tradotto in fattore come fosse un nome proprio. E anche fattore, no, non mi ricordo veramente, no. Vabbè, forse ho fatto bene a perdermelo. I successoni di Webball, ragazzi, quindi. Ah, beh. No, io Webball per me il massimo. Il massimo rimane Postal, insomma, che tutti i terroristi che stanno lì, no, alla fine si stanno ammazzando fra di loro. Poi dicevo, invece di spararci, troviamo qualcosa in comune fra di noi. Cos'è che abbiamo tutti quanti in comune? Tutti odiamo gli ebrei, ah, giusto. Siamo ammazzati gli ebrei. Vabbè, sono belle cose dei Webball. Che poi non so, ancora vivo? Sì, credo di sì. Comunque, per darti il riferimento, a Dungeon Siege ci ha giocato. Dungeon Siege, sì, beh. In The Name of the King, il film di Dungeon Siege. No, non sapevo neanche. Che è una cosa di uno squallore in cui c'è, cioè, praticamente, immaginati il livello di proattitudine, immaginati Jason Statham come si sveglia la mattina, preso e messo sul set, senza un filo di truc, niente, praticamente è proprio una cosa che The Medievale non c'aveva proprio niente, però vabbè, insomma, la chip de cazzo. L'avranno girato con 5.000 lire, credo, insomma. Vabbè, che c'è già tutto. E c'è scappato pure il resto. No, non c'è il dottore. Vabbè, ragazzi, che facciamo? Andiamo a preparare la cena per chi c'ha qualcosa. Sì. Io penso che mi salutiamo tutti. Salutiamo Davide, vai, Giacomo, Vargion. Tra l'altro, Vargion New Entry Runtime Radio. Vargion ha tutti gli effetti staff ormai. Ma chi gliel'ha fatto fare? Vargion, ma che cazzo, ma che hai fatto? Ma che hai fatto? Sei rovinato, cioè, sei venuto ad intasare di nuovo le ore che hanno. Che si ha a disposizione con Spreaker, vabbè. Infatti, hai visto che oggi già su Tecnopills, su Riot, già bestemmiavano. Ah, avete visto un nuovo podcast che non c'entra niente. E poi dopo tutti ste puntate, tutti insieme. Ho 500 messaggi arretrati. Di... Ecco, infatti. Aspetta, ma guarda... vediamo un attimo. Ok, zero messaggi arretrati. Risolto il problema. Ciao a tutti. Buona serata, ragazzi. Non ve ne andate perché prima vi dovete beccare il nostro spot. Caro, lo sai che su Runtime Radio è partito il mio podcast e gli scimmioni non leggono Nietzsche? Sarà un podcast sui libri. Ma non parlerò di libri in modo tedioso, no? Sarà piuttosto un vaudeville irriverente di rimandi letterari. Libere associazioni, citazioni, concatenazioni. Dove lo scimmioni, ti piace la trovata degli scimmioni? Scendiamo per un po' dagli alberi e se non proprio per seguire virtù e conoscenza, almeno per ricordarci che, come ha scritto Pennac, un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso. Ma ci sono le astronavi? Facciamo così, tu non lo ascoltare. Ti faccio un disegno. Gli scimmioni non leggono Nietzsche, un podcast sui libri, senza astronavi.